Crystal Ball. Con Crystal Ball ci può giocare. Crystal Ball. E tante cose da inventare. Crystal Ball. Non ci vuol niente da soffrare. Su gioca un po' con Crystal Ball. Poi Crystal Ball se vuoi si attacca. Crystal Ball. Non rompe niente e poi non macchia. Crystal Ball. Ci puoi far cose divertenti. Crystal Ball. Mille colori differenti. Gioca un po' con Crystal Ball. Metti un po' di Crystal Ball sulla cannuccia. Soffia e il mondo cambia colore. È un prodotto. Giochi preziosi. Per questa quindicesima puntata dell'Accademia della Brusca. Buonasera, benvenuti, io sono Nina e al mio fianco c'è Nenia, che ha deciso quest'oggi di lasciare un lieve sottofondo di Ok, il prezzo è giusto. Che ne dite? Visto che siamo partiti col Crystal Ball, anni 80, continuiamo. Tra l'altro, Ok, il prezzo è giusto, non andava in onda quest'ora su Rete 4 più o sì, meno? Sì. Io mi ricordo che cenavo con mia nonna col semolino e c'era la Zanicchi. Sì, grosso modo sì. Pensa che schifo. Che ricordi? Non so. Che schifo la Zanicchi, ragazzi. Questa quindicesima puntata, insomma, vi dobbiamo intossicare un po', perché per un 3 settimane buone non sentirete più la nostra sigla e nemmeno la nostra soave voce. Ma chi bussa alla porta? Oh, ma prego, avanti. Non ci credo, è Mara Venier. Oddio, ragazzi. Ma c'è anche Iva Zanicchi. Buona Sara. Ma buonasera. Buona Sara. C'è anche Luca Giurato. Buongiorno. Ultimo delirio. Sembra la puntata di Capodanno. Oppure quella volta che abbiamo occupato il colpo di stato a Radio Wombat e è andata così. È stato bellissimo. Bene. Ora basta, niente basta, loop per basta voi, cazzate. Vi risparmio anche il loop della puntata. Siamo partite un po' così. Allora. Ora ci riprendiamo. Bene. Di cosa parliamo quest'oggi? Perché di tutto e di niente, lo dico io. Di tutto e niente. In realtà questa sera, visto che vi abbiamo messo quella bellissima sigla spot, anzi, del Crystal Ball, perché? C'è un motivo, non è che facciamo le cose a caso. Che cosa fa il Crystal Ball? Che cosa... Diciamo, io mi ricordo vagamente delle palle enormi colorate. Colorate gonfissime che non esplodevano. Enormi. Di tutti i colori, quindi ebbene sì, questa sera vi gonfieremo la testa. Poi, con... qualsiasi forma prenda, Esatto, con una serie di libri. Abbiamo fatto una piccola selezione dalle nostre librerie per raccontarvi un po' quelle che secondo noi sono le letture fondamentali per così un'infarinatura per di linguistica. Farvi due palle grosse come esatto. Il crystal ball, fondamentalmente. Non solo linguistica, ma anche per chiunque volesse riciclare la sua laurea in lettere, filologia, come ho fatto io in un lavoro. Se ci riuscite. È un libro che si chiama La parola immaginata di Anna Maria Testa, che è teoria e pratica del lavoro del copywriter. Non copywriter, wow. Come dicono in molti. Io non faccio il copywriter. Io faccio il copywriter invece. Bene. Allora mandiamo subito il primo pezzo. Sì. Preferisci qualcosa da lettura o qualcosa di stupidino per iniziare alla grande? Allora, siccome la selecta musicale di stasera è estremamente bipolare e carente di litio, abbiamo roba ecco. Seria e roba non meno seria, io quindi direi di andare con quella per riscaldarsi un po'. Un po' di riscaldamento, via. Poi vi rompiamo le palle, intanto andiamo con questo. Dalla cabina uscir non voleva, io le chiedevo piccina perché, non voglio uscire così rispondeva, son troppi gli occhi che guardano me. Un, due, tre, dici sotto cosa c'è? Portava un izzi vizzi, tini wini, tu fatti piccolo bikini, che copriva da qui fino a qui, un izzi vizzi, tini wini, tu fatti piccolo bikini, lei non voleva mostrarsi così. Un, due, tre, dici sotto cosa c'è? Si mise un lungo, pudico pastrano e finalmente avanzò verso il mare. Era un costume davvero un po' strano, gridava a tutti che bel palomar. Un, due, tre, ma dici sotto cosa c'è? Portava un izzi vizzi tini wini, tuffetti piccolo bikini, che copriva da qui fino a qui. Un izzi vizzi tini wini, tuffetti piccolo bikini, lei non voleva mostrarsi così. Un, due, tre, dici sotto cosa c'è? Poi finalmente si spoglia e si getta, ma tutti quanti la stanno a guardare. Non ha il coraggio di uscire, poveretta, non ha il coraggio di uscire dal mar. Un, due, tre, ma dici sotto cosa c'è? Portava un izzibizzi, pinni wini, tuffetti piccolo bikini, che copriva da qui fino a qui. Un izzibizzi, pinni wini, tuffetti piccolo bikini, lei non voleva mostrarsi così. Quel bikini a pezzettini, che fortuna le portò. Un regista la vide, per un film la scrittura. Ma che carina questa canzone. Siamo sì, in mood marittimo quasi, perché tanto noi ci risentiremo quasi con la primavera il 2 di marzo, e il 2 di marzo sarà insomma, forse speriamo ora di cambiare un po' gli armadi e tirare fuori i pezzettini di bikini, i pezzettoni di panza, ovviamente. Dunque. Perfetto, e qui arriva il momento. Arriva il momento di proporre. Ci siamo, ragazzi sì, miei, sì, sì, ora cari mi tocca. Miei. Allora, in questa nostra selezione di 1, 2, 3, 4, 5 libri, almeno di 4 ne parleremo. Per sì. Cui, sì, da sì, cosa sì. Iniziamo? Scegli tu. Io ti do carta bianca. Mi dai carta bianca, perché ovviamente anche stasera non c'è una scaletta sotto, ma perché... Beh, questa era di letture. Esatto, quindi io direi di iniziare o con Le lingue e il linguaggio o con Steven Pinker. Sì, allora io farei così. Visto che Graffi Scalise, Le lingue e il linguaggio sono la vera introduzione alla linguistica, io inizierei da loro, che ne dici? Esatto, così anche un po' per ripercorrere quella che è stata la nostra... i miei foglietti di appunti! che Ilenia mi ha prestato un libro tempo fa e io glielo ho restituito, non soltanto tutto bello ordinato, ma anche pieno di appunti. Pieno di vero, appunti, Nenia? Guarda, potevo conoscerti un pochino prima, no? No, mannaggia. Invece. Allora, primo libro, ci dica, signora Nenia, edizione, titolo, autori. Ma io ora ve lo leggerei tutto, però non si può. E allora vi leggo questo pezzettino carino. Siamo circondati sin dalla nascita da dati linguistici. I genitori e i parenti parlano ai bambini e continuiamo a vivere circondati da dati linguistici. I compagni di giochi, la radio, la televisione prima, la scuola, i giornali e i libri poi. Viviamo in un universo di atti linguistici e ci sembra del tutto normale parlare una lingua, capire chi ci parla, farci capire ed esprimere ordini, preghiere, supplicare, minacciare, scherzare, riferire, ricordare e immaginare. E si noti che ognuno di questi atti linguistici presuppone conoscenze linguistiche specifiche, anche se implicite. Basti pensare al fatto che per supplicare o per minacciare usiamo toni di voce, parole, giri di frase diversi. Questo è proprio l'incipit delle nostre puntate, praticamente. Eh sì. Che dire. Poi c'è una parte interessantissima, però ho perso il post-it. Perché qui si vive di post-it. Eccolo. Competenza non significa bravura. Sempre parlando proprio a proposito delle conoscenze linguistiche di un parlante, ok? Competenza non significa bravura. Competenza è semplicemente l'insieme delle conoscenze linguistiche che un parlante ha. E sono tantissime, anche molto sottili, per lo più inconsapevoli. Se ci poniamo la domanda, che cosa sa un individuo per poter parlare una lingua L come la parla e per poter capire un parlante della lingua L come lo capisce? Dovremmo suddividere l'interrogativo nei vari livelli in cui si struttura una lingua e parlare di competenza fonologica, morfologica, sintattica e semantica. Ti è beccato di questo? Ti è. Era tutto qua. Questa è una delle parti, però vedete, allora, quello che Neni ha in mano è un volume del Mulino. Il Mulino è una casa editrice bolognese che generalmente produce testi universitari, comunque dedicati a uno studio accademico di storia, di sociologia, insomma ci sono tanti insiemi, diciamo, di materie in questa casa editrice. Questo è un manuale di linguistica. Però potete sentire come comunque scorre bene, nel senso non ci sono concetti astrusi, non ci sono cose che in realtà non riusciamo a capire, perché basta semplicemente fare un ragionamento, quello che siamo comunque parlanti, utilizziamo una lingua che è composta da un sistema grammaticale e basta semplicemente lasciarsi trasportare da queste parole. Sì. C'è anche da dire che la mia lettura non stimola tantissimo l'attenzione e la comprensione, ma effettivamente sì, è un libro molto, molto facile, molto interessante. Potevamo mettere un pezzo degli Einsturzen de Neubauten sotto, così sembrava un reading serio di quelli tipo che fanno. Mi sono venuti in mente proprio loro, non te ne ho parlato però prima, quindi perché è pura siamo telepatia. Ma sai perché? Perché leggevo il pezzettino della componente della competenza fonologica e inizia così. Un parlante italiano sa che i suoni P, N, A, E sono suoni della sua lingua, ma che suoni come pf del tedesco pferd, che non so assolutamente se si possa leggere così, che significa cavallo. Il primo suono dello spagnolo José o il suono rappresentato dalla TH nell'inglese non sono suoni della sua lingua. Un parlante italiano conosce inoltre, come si è già visto, quali sono le combinazioni dei suoni che formano parole e quali no. Pane, pena, pnae e apn, no. Questo è. Ottimo. Un parlante sa anche fatti più sottili. Per esempio, in un qualche modo sa che se una parola in italiano inizia con tre consonanti, la prima deve essere per forza una S. Sproposito, strano, scranno, e non tprota, ctrano, tcroso. È anche difficilissimo da leggere. È polipoesia, praticamente. Questa è pura poesia, sì. Dada. O ecco. Come, per esempio, un parlante sa che se deve fare il plurale di amico deve cambiare automaticamente e senza pensarci il suono K, sarebbe cioè è indicato con la K, di amico, esatto. Nel suono T con la S lunga, di amici, per questi simboli, poi insomma ci sono altre paginate di spiegazioni. Sì, per le trascrizioni IPA. E cambia, infatti, che cambia poi automaticamente anche la posizione dei vari accenti. Che bello. Ecco, questo è Le lingue e il linguaggio di Giorgio Graffi e Sergio Scalise, edizioni Il Mulino Manuali. Poi ci sono la competenza morfologica. Infatti, come è strutturato questo libro per chi volesse leggerselo? Allora, è interessante. Intanto è sottile, vi posso già dare una buona notizia, non è un mattone. Sono 296 pagine, 303 con l'ultima parte interessantissima di Cervello e Linguaggio. Esatto. Sì, magari dopo si leggono due pezzettini di cervellini e linguaggini anche. Sì, è strutturato così. La prima parte parla un po' di che cos'è il linguaggio, quindi linguistica, caratteristiche proprie del linguaggio e le lingue e il linguaggio. Poi che cos'è una lingua, quindi dal parlato allo scritto fino a tutte le competenze che si stavano indicando poco fa, sintagmatico, paradigmatico, il segno linguistico, tutta la parte proprio della lingua vera e propria. E poi le lingue del mondo, quindi le varie tipologie, i vari sistemi di scrittura. E questa è una parte stupenda, molto bella, bellissima. Sì. E poi ci sono i suoni, tutta la parte della fonetica e della fonologia, interessantissima anche questa perché è trattata veramente in maniera molto chiara. Per chi soprattutto per la prima volta si avvicina a questi argomenti, io davvero consiglio questo libro proprio perché è alla portata di tutti. Anche per qualche genitore illuminato che volesse spiegare al figlio preadolescente qualcosa sul linguaggio, sulla fortuna che abbiamo nell'averlo acquisito, direi che è un'ottima lettura. Anche perché per l'appunto, come sentito poco fa, di ogni parte, di ogni parte fa anche degli esempi, questo appunto per chi magari si avvicina per la prima volta degli argomenti è fondamentale. Poi parla della struttura delle parole, quindi la morfologia, lessico e lessicologia, la sintassi, dialettologia, la linguistica storica, fino all'acquisizione del linguaggio che chiaramente è trattato dalla Donati, perché solo lei poteva farlo. E infine quello che si diceva prima, cervello e linguaggio, per l'appunto è proprio un po' di tutto per far nascere da qui chi ce l'ha nel DNA l'amore per la linguistica. Che dovremmo avere un po' tutti. Sì, senza questo diciamo non si può, penso non ci si possa avvicinare a questo tipo di argomenti, nel senso o sì, chiaramente se si fanno degli studi universitari probabilmente questo è superato, nel senso che chiaramente viene già approfondito tutto, però per chi invece ha un altro percorso di studi, questo ecco è il libro che consiglio veramente, Le lingue e il linguaggio, introduzione alla linguistica. Io ho in mano la terza edizione dove appunto ci sono questi approfondimenti della Donati e poi di Cervello e Linguaggio di Stefano Cappa e Andrea Moro. Nelle edizioni precedenti manca l'uno e poi l'altro. Quindi questa è un'edizione, è quella che tu hai, quella più aggiornata, diciamo. Sì, era quella più aggiornata, non so se poi ne sono uscite 2012 delle altre con delle varie. Non so se le edizioni successive hanno dei capitoli in più o sono state semplicemente riviste. Non so, onestamente non so. Questo qui comunque... Anche l'Aula Web, questo volume, anche la parte interattiva, dovrebbe esserci un codice da qualche parte all'interno per fare poi anche gli esercizi. Sì, perché ci sono tutti gli esercizi. Per i più sadici. Esatto. E basta, io direi per adesso con questo ci siamo, poi eventualmente dopo leggiamo qualcosa di curioso sul cervello. Esatto, la prima palla di Crystal Ball l'abbiamo fatta, colore giallo. Questa è quella blu. Io ho quella multicolor dopo, oddio ce l'ho tutte bianche, mannaggia. Bene, allora bene, possiamo mettervi qualcosa, un pezzo That Can Dance, Enigma of the Absolute, così vi rompete ancora di più le palle. Thank you. eccoci. Gestione di mixer e cose, qui regia. Sì, la Nenia si è allontanata, si è allontanata da me. Sì, perché mi rimproverano, devo stare più vicino al microfono per farlo, è un casino, voi non avete idea. Bene, in questo mese sistemeremo anche questi problemi. Sì, vi ricordiamo che noi fino al 2 di marzo, giovedì 2 marzo, non andremo in onda perché ci ritiriamo per deliberare, come direbbe il giudice Santi Licheri, col martelletto bum bum bum. E quindi in realtà ci ritiriamo un po' per fare mente locale, per portarvi ovviamente altri argomenti, altre cosine carine di cui parlare, soprattutto dargli un minimo di, tra virgolette, storicità e di attinenza, perché... Sì, soprattutto di attinenza. Prova uno, due, tre. Bene. Ma devo comunque strillare. Usa il tuo diaframma, Nenia. Perfetto. Ok, benissimo. Hai trovato qualcosa di carino da leggerci? Io sì. Passiamo al secondo. A lui. È lui o non è lui? È lui perché vi abbiamo fracassato la testa, le ginocchia, la pancia e pure le palle per 2 settimane, forse 3, con Chomsky. Ma stasera, non contente, vi parliamo di Steven Pinker. Poveri grandissimo voi. Steven Io già Pinker dato. Guardo con... altrove e ascolto musica dal mio Walkman. Non voglio saperne più niente. Edizione I Saggi Mondadori. Anzi no, gli Oscar, scusate, manco i saggi. Abbiamo gli Oscar Mondadori. Steven Pinker, L'istinto del linguaggio, sottotitolo Come la mente crea il linguaggio. È un libro bellissimo, un excursus partendo dal fatto che il linguaggio è una delle più straordinarie caratteristiche umane. Si parla dei bambini di 4 anni che già conoscono migliaia di parole, hanno la capacità di costruire frasi complesse, generalmente grammaticali nel 95% dei casi, anzi facciamo quasi il 100%. E quindi conoscono il loro un punto di vista grammaticale, un punto di vista sintattico, e secondo Pinker noi siamo in grado di surclassare la più potente intelligenza artificiale. E come fa a dirlo? Grazie alle teorie ovviamente di Noam Chomsky, sviluppate tra gli anni 50 e gli anni 60, e della sua ipotesi ardita della grammatica universale del cervello del bambino, che fin dalla nascita è predisposto ad utilizzare la grammatica. Quindi Pinker si chiede se esistano geni del linguaggio, e la risposta sua è sì, oppure c'è di più. Esiste un linguaggio mentale astratto, secondo lui, che viene chiamato il mentalese, che dà forma ai pensieri e che noi traduciamo di volta in volta nella nostra lingua madre. Quindi qui abbiamo a che fare quasi anche con la semantica, cioè chiunque, un cinese, un italiano, un tedesco, un aborigeno, se pensa a una fragola, pensa a una fragola, quindi... Oddio, stiamo finendo negli archetipi, ragazzi, attenzione. No, te ne prego. Il mentalese, no? Per cui noi, facciamo un passo più avanti, dai. Per cui noi, prima di pronunciare una parola, l'abbiamo già formulata all'interno della nostra testolina e con la nostra lingua madre siamo in grado di dargli darle un nome. Vi leggo una paginina su queste teorie di Pinker, perché in realtà questo libro, nonostante sia un Oscar Mondadori, quindi ha le pagine tipo fatte con la pasta filo. Oscar Mondar merda. Mondar merda. Togliamo tutte le parti finali con il glossario e tutta la bibliografia. Siamo a 424 pagine, belle fitte, però questo libro di Pinker comunque è un, non dico un romanzo, si tratta sempre di un saggio, però è un qualcosa di molto bello e, come dire, assorbibile, nel senso che non è difficile affezionarsi a queste pagine. Allora, come funziona il linguaggio? Vi leggo pagina 96. Una parte del discorso non è quindi un tipo di significato, è una sorta di simbolo che obbedisce a certe regole formali, come una pedina del gioco degli scacchi o il chip a poker. Un nome, per esempio, capito, anche giocatore d'azzardo, un nome, per esempio, è semplicemente una parola che fa cose da nome. È il tipo di parola che viene dopo un articolo e così via. C'è una connessione tra concetti e categorie o parti del discorso, ma è sottile e astratta. Quando evochiamo un aspetto del mondo come qualcosa che può essere identificato e contato, misurato e che può giocare un ruolo negli eventi, il linguaggio ci permette spesso di esprimere quell'aspetto con un nome, che sia o no un oggetto fisico. Per esempio, quando diciamo «ho tre ragioni per andarmene», contiamo le ragioni come se fossero oggetti, anche se naturalmente non pensiamo letteralmente che una ragione può star su un tavolo o essere calciata lungo una strada. Bellina questa immagine, la ragione calciata lungo la strada. Allo stesso modo, quando evochiamo degli aspetti del mondo come eventi o stati che coinvolgono diversi partecipanti che si influenzano l'un l'altro, il linguaggio ci permette spesso di esprimere questi aspetti tramite verbi. Per esempio, quando diciamo la situazione giustificava misure drastiche, parliamo di giustificare come se fosse qualcosa che la situazione ha fatto, anche se sappiamo che la giustificazione non è qualcosa che può capitare di vedere succedere in un tempo e in un luogo particolari. I sostantivi sono spesso usati per nomi di cose e i verbi per azioni, ma dato che la mente umana può evocare la realtà in modi diversi, i sostantivi e i verbi non sono limitati a questi usi. E poi inizia a parlare dei sintagmi che raggruppano parole in rami. Questo è un passo un po' complicatino, ma sicuramente ne parleremo. Non esagerare. Quindi, insomma, così, capito Nenia? Qua si parla di... hanno romanzato, cioè Pinker è stato in grado comunque di astrarci un po' da quello che è il concetto di nome e di verbo normalmente, al di fuori perlomeno di quello che ci insegnano a scuola. Quindi il nome è un sostantivo che si può declinare per numero e genere, il verbo bbbbb. Qui invece riusciamo a capire che queste parole in realtà stanno alla base di un qualche cosa che può essere figurato, concreto. E basta, ho finito. Poveri noi. E comunque, se volete leggervelo, questo è veramente bellino. Ma come direbbe il mio amico Stefano Rosigalli, dal vocabolario del Bernaolo fiorentino, gira e rifrulla e si trovò la punta. Gira e rifrulla sta per quando ci costa tanto tempo e fatica riuscire a trovare qualcosa. Gira e rifrulla e si trovò, alla fine ci riuscimmo a trovarla. Questo è proprio il titolo Aiuto. Di questa puntata, Gira e rifrulla. Non potevamo concludere l'anno con questa cosa. L'anno della brusca. Con perché ovviamente l'anno della brusca si chiude più o meno col periodo degli scrutini. Con gli scrutini e il capodanno cinese. Siamo terribili. Esatto. Che anno inizia quest'anno? Il gallo, per l'appunto. Perfetto. Come Rosigalli. Avete capito. Ma ragazzi, cioè, qua, la prossima versione no. Cioè, non faremo un programma sull'esoterismo, non faremo più un programma sulla linguistica. Sì, perché ormai sì. Succedono cose incredibili in questa regia. Io voglio qui tutti i pentagrammi e tutte le cosine con le lettere. Come si chiama quel cosino con le lettere? Luigia? Per le sedute spiritiche. Luigia. Si chiama la Luigia? No, Ouija. La Luigia. Fa le sedute spiritiche, la Luigia. Bellissimo. Quindi direi di mettere un bel pezzettino di un gruppo che si chiama genere Witch House, ci sta benissimo con quello che abbiamo appena detto. Yeah. Tornate, Gidio, siamo tornate. Tiro un po' su. Andiamo su di volume con le nostre vocine. Perché? No, penso ci siamo. Ok, va proviamo. Bene. Benissimo. Spacchiamo le orecchie, vi spacchiamo le orecchie. Bene, bene, bene. Minacciose. Torniamo a parlare dei nostri amichetti Graffi e Scalise. Quelli del Crystal Ball Blu. Sì, il Crystal Ball Blu, vi volevo leggere una parte, ma non lo farò più. Ho cambiato idea. Oh, sì, ho cambiato idea perché poi mi sono resa conto che per leggervi quella avrei dovuto leggere un'altra cosa, ma a quel punto si fa notte, allora no. E allora ho deciso di leggervi questo. Come si studia l'acquisizione? Domanda da un milione di euro. Sì, perché è un po' più, probabilmente un po' più comprensibile senza il pippone precedente. Non è facile studiare come i bambini imparano a parlare, soprattutto quando si tratta di bambini molto piccoli. Innanzitutto perché quello che è immediatamente tangibile, cioè la produzione del linguaggio, ovvero cioè come i bambini parlano, è solo un aspetto del loro apprendimento. I bambini devono anche naturalmente imparare a cogliere e capire il linguaggio. E non abbiamo alcuna garanzia che comprensione e produzione vadano di pari passo. Si devono quindi trovare modi per capire cosa un bambino sappia sul linguaggio, anche a prescindere da quello che effettivamente produce. Non è facile, perché non glielo si può chiedere, ovviamente, soprattutto se è molto piccolo. Pensiamo ai neonati. Passiamo molti mesi prima che i bebè comincino a produrre suoni articolati definibili come linguistici. Poi più là appunto c'è tutta una parte in cui tratta di quello che è e non è una produzione linguistica nella lallazione, piuttosto che in altre produzioni dei bambini. Poi eventualmente ne faremo una futura puntata. Una puntata. Eppure, fin dalla nascita, i bambini dimostrano interesse e spesso autentica passione per la parola, specie quella della madre. Ma che cosa percepiscono? Che cosa traggono da questa continua e prediletta esposizione al linguaggio? Ecco che si dovranno escogitare, e fortunatamente si sono escogitati, veri e propri trucchi sperimentali per indagare nella loro competenza anche precoce o precocissima. Facendola breve, vi dirò soltanto i nomi di alcuni dei test che si utilizzano proprio per trarre dei segnali sulle comprensioni e incomprensioni dei bambini molto piccoli. E sono questi, ecco, ritorno al punto. Una delle procedure più usate per indagare la competenza linguistica dei neonati è il paradigma dell'assunzione non nutritiva. Questa tecnica prevede l'uso di uno speciale succhiotto collegato a sensori che misurano la frequenza e l'intensità di suzione. Si basa sul fatto che la forza con cui un bambino succhia è in qualche modo misura della sua stessa attenzione. Il bambino viene lasciato succhiare tranquillamente finché gli viene fatto sentire un dato input linguistico. A sentire questa novità, il bambino comincerà a succhiare con maggior vigore. Dopo diverse ripetizioni dello stesso input, comincia a calare l'attenzione e con essa la frequenza di suzione. A questo punto comincia l'esperimento e i bambini sono divisi in due gruppi. A un gruppo cosiddetto di controllo si continua a far sentire lo stesso input e la frequenza di suzione continua a calare gradualmente. A un altro gruppo, il gruppo sperimentale vero e proprio, si fa invece sentire un nuovo input. Se la differenza non è percepita, la frequenza di suzione continuerà a calare. Se invece il nuovo input è percepito come tale, i bambini ricominceranno a succhiare con vigore e si avrà allora quindi un'evidenza di una capacità di discriminazione fra i due input. Questo tipo di tecnica è stata adoperata con grandi successi per dimostrare che bambini anche di pochissimi giorni e settimane hanno già una competenza fonologica sviluppatissima. Questo per sottolineare come tutte le volte abbiamo sempre detto, anche i bambini che non sanno produrre comunque dentro hanno stanno una competenza. Lavorando. Poveri. Dal sesto mese di vita poi si adopera piuttosto il paradigma della preferenza nell'orientamento della testa durante la suzione, quindi a seconda di che cosa guarda e cosa, dove gira la testa si intuisce la preferenza. Sì, era quello. Sì, no, perché guardavo la vignetta, mi sono confusa con un altro testo dove appunto fanno vedere delle sì, galli, cani e scimmie, dove appunto parlano dello stesso cambio di orientamento della testa. Questo per dire che tutto lo studio dell'acquisizione della lingua non si basa soltanto su situazioni di menomazione linguistica, ma anche di vere e proprie osservazioni su quello che accade poi al neonato, che è la vera incognita poi di quello che riguarda l'acquisizione del linguaggio e la nostra conoscenza su di esso. E questo è quanto. Stop. Stop, questa è una bellissima, un bellissimo excursus per questo libro, Graffi e Scalise, ve lo riconsigliamo. Oddio, m'ammazzo. Povera. E che si fa? Si mette un altro pezzone per farli, poi passiamo, che ore sono? Sì, abbiamo più o meno 20 minuti, per cui passiamo poi anche a parlarvi di un altro libro. Stiamo decidendo cosa farvi ascoltare. Decideremo di farvi ascoltare, dai, se no qualcosa di pavoneggiante. Pavoneggiamoci allora. Ora che sappiamo tutte queste cose, che sia. Pavoneggiamoci. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? State soffrendo, lo sappiamo. Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Mondo, se rido, se piango, è solo tu dividi con me. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, le mie Ci siamo distratti un attimo perché qualcuno qui ha nominato il Super Telegattone e quindi abbiamo iniziato a cercare video su Maurizio Seimandi e quella cosa tutta dorata con le cuffie che non ci ricordiamo come si chiamava, l'omino, che in realtà popolava l'80% dei miei incubi. Il motivo per cui non ho... assieme a Maurizio Seimandi sistemato e subito i volumi è proprio perché in realtà io l'avevo trovato. E sappiate che dopo ve lo pupperete tutto. Esatto, quindi ecco, ci pupperemo il Super Telegattone. Detto ciò, io ti avviso, sono le 8:20. Noi avevamo 6 libri e 15 pezzi. Questo è uno dei motivi per cui stiamo scazzando anche la regia della puntata, perché quindi abbiamo esagerato. Stiamo iniziando a scremare i pezzi e anche tra l'altro avevamo delle cose bellissime, Elizabeth Fraser, gli Psychic TV. Mi sa che taglieremo Tullio De Mauro, dai, perdoniamolo. Sì, questo tanto è un evergreen, tutto lo possiamo evergreen mettere sempre, lo utilizzeremo. Comunque. Che ovviamente Tullio De Mauro non canta, lo sa. Anche perché adesso ha belle smesso di cantare, poretto, non era sì. Per dire, ma è uno dei primi morti illustri del 2017. Sì. Quanto solo, siamo solo dal punto di vista linguistico, chiaramente. Esatto. E sì, bene, sì, cara. Sì, sì. Poi per il resto ai poster lardo sentenza. bene. Allora, quando i bambini hanno acquisito il linguaggio, sono cresciuti, vanno all'università, si laureano, sono fricchettoni, fanno lettere, filosofia, poi si trovano con questa laurea che in Italia è per l'80%, facciamo anche il 90% inutile, e devono riciclarsi con un mestiere. La qui presente Nina, che si è laureata in filologia medievale, con una tesi di 400.000 pagine su... Povera disgraziata. La versione, edizione critica di un testo a stampa di San Juan de la Cruz, che speriamo mi abbia fatto guadagnare il paradiso quando me ne vo. Tanto no. E, anzi no. cosa ha fatto? Si è riciclata, ha studiato un altro pochino. Perché sto parlando in terza persona? È una cosa che fa cagare. Vabbè, mi sono riciclata un po' con la laurea. Perché sei priva di dei sì di persona. Ecco, è una cosa terribile quella che ho appena detto. La Nina ora legge un libro. E la quindi Nina, ho fatto la copywriter, ovvero mi sono aperta una partita IVA e mi sono rovinata. Ecco. Quindi, cosa fa il copywriter? Il copywriter è colui che generalmente, detta una parola grossa, scrive testi pubblicitari. Mettiamola così. In realtà, però, per fare questo lavoro ci vuole un uso creativo del linguaggio abbastanza, insomma, è una cosa divertente, per cui a volte ti tocca scrivere di nulla e devi inventarti quello che devi scrivere. Come stiamo iniziando a fare con le nostre trasmissioni. Ma certo. Cioè lei lo è, io meno. No, anche la Nenia. Questo libro, quindi, che vi voglio illustrare è di Anna Maria Testa, che è una delle più grandi copywriter italiane, che ha iniziato l'attività proprio nelle vecchie agenzie pubblicitarie, dove ancora utilizzavano macchina da scrivere, i rogue e altri tabellari strani di questo mestiere, e è una signora, penso abbia poco più di 60 anni oggi, fa ancora la copywriter a un blog bellissimo in realtà che si chiama Il mestiere di scrivere. No, scusate, quella è la Carrada. Ho sbagliato, ma anche lei è una grande copywriter. E, Anna Maria Testa ha scritto un sacco di cosine carine. Quello di cui parliamo stasera è La parola immaginata. Però ha scritto anche La trama lucente, Minuti scritti, che è un libro molto carino per chiunque volesse esercitare un po' le facoltà creative della scrittura. È bellino, bellino. E poi Le vie del senso, un libro intero sulla pubblicità, edito nel 2003, mi sembra. E Farsi capire anche, che è un libro molto molto bello sulla comunicazione efficace al giorno d'oggi, cioè ripulita da tutto quello che non ci serve, però che al tempo stesso non trascura il linguaggio, la bellezza della lingua. Questo era un po' un excursus su Anna Maria Testa. Su. Le vie del senso, io l'ho letto. L'hai letto? Allora lo sai. Sì, è bellissimo. Lei è una scrittrice meravigliosa. È uno dei miei preferiti. Tra l'altro, forse l'ho letto anche durante il periodo della tesi, se non erro, sì, perché feci la tesi sui mass media. Sì, lei era sempre lei presente. Sì, ma poi, nonostante lei sia comunque una copywriter, quindi un po' imbazzata, come dicono i giovani, nel mondo del marketing, io vi posso assicurare che in realtà è una professionista molto molto ancorata all'uso quasi classico che si può fare della scrittura della lingua. È una persona che conosce tantissimo la sociologia, nel suo blog scrive un sacco di cose inerenti anche all'utilizzo del linguaggio al giorno d'oggi, oppure alle combinazioni creative che possiamo fornire, diciamo, che con il nostro linguaggio, che possiamo assemblare. E quindi io vi leggo un piccolissimo assaggio di La parola immaginata, teoria e pratica, tecnica e pratica del lavoro di copywriter, edito dal Saggiatore. Sono a pagina 113. Allora, allora, la nostra cara signora Anna Maria Testa scrive: in generale amo pochi neologismi pubblicitari e sono convinta che la pigrizia dei copywriter generi mostri. È vero, verissimo. Sentite un po' questa. Parole come piacere espresso, gusto lungo e pronti in tavola, quindi vi ricorderete un sacco di pubblicità anni 80, era meglio la gomma del ponte piuttosto che gusto lungo, non sono espressione di un uso creativo della lingua, ma della modestissima scelta di cavarsela con il minimo sforzo. Brava Anna Maria! Ripeto anche che conviene sempre scrivere in modo semplice, usando parole comuni. Nuovo dovrebbe essere il modo in cui queste vengono adoperate. Eppure l'uso pubblicitario della lingua può e deve essere innovativo per due ragioni almeno. Una novità formale che rende interessante un messaggio che non comunica, novità sostanziali, questo è il grosso scoglio della professione. E le novità sostanziali in pubblicità sono pochine. Spesso prodotti analoghi vantano performance simili, è il caso dei detersivi, dei dadi per brodo, del tonno in scatola, delle caramelle alla menta. E qui lei inizia a parlare di un suo lavoro per Golia Bianca. Che le caramelle buonissime. Allora, quelle dell'orso e di Licia Colò. Lucia Colò fortunatamente è arrivata molto, lei non c'entrava già più niente, mi sa. Allora, Golia Bianca è un confetto alla menta, rinfresca l'alito e ristora il cavorale. È un prodotto che si acquista d'impulso, generalmente noi lo facciamo alla cassa, al supermercato. Sì. La campagna pubblicitaria, dice, è fatta di pagine sui periodici, manifesti e un telecomunicato da 30 secondi. Ah, che bei tempi. Viene sempre mostrato un volto con varie espressioni sottolineate da interventi grafici in verde brillante, che è il colore del brand. Notare che i titoli e le immagini non fanno altro che esprimere le caratteristiche rinfrescanti del prodotto. Cosa si è inventata Anna Maria? Bene, dice, ho usato termini pertinenti. Il velo pendulo è una porzione del palato e le papille sono i rilievi della lingua che percepiscono i sapori. L'unica parola stravagante è sfrizzola, voce di un verbo sfrizzolare costruito per assonanza con l'aggettivo frizzante. Eppure l'effetto finale è quello di un linguaggio inventato, una specie di grammelò fatto di suoni in grado di esprimere un senso. Il grammelò, ricordiamocelo per il grammelot. In grado di esprimere un senso e contemporaneamente fatto di parole dal significato corretto. Il risultato è interessante proprio perché titilla la papilla, non vuol dire altro che solletica la lingua. Oppure un'altra pubblicità le scriveva: Golia Bianca sfrizzola il velo pendulo. Perché era amica di amici miei. Di amici tuoi? Probabilmente. Sì, probabilmente era amica della super cazzola. Esatto, come Antani. Che bello. Ecco, questo era un piccolo assaggio di una professione veramente consigli per gigantesca. Letture, consigli per letture che dovreste fare in questo mese di pausa, perché poi quando si rinizierà a parlare si va dritto e si citeranno come delle gran bastardi i libri che vi abbiamo consigliato della serie, se poi non capite cazzi vostri. No, non è vero. No, non siamo buone, dai, non lo faremo mai. Anzi, se poi volete sapere, riavere perlomeno sotto mano i titoli di quello che abbiamo spiegato stasera, o se magari avete qualche curiosità in più, potete scriverci una mail, sempre molto gradita, postawombat@insiberia.net. Ricordiamo il contest logo. Sì, che scade il 22 febbraio, 22, se ci siamo, 20 vicini. Giorni. Su, forza, forza. Noi forza. Andremo in onda con il logo nuovo. Sì. E vi facciamo sentire l'ultimo pezzo a questo punto. Sì, sono le 20:28. Allora, noi lo diciamo, avevamo preparato gli Psyche TV, Elizabeth sì, Fraser, Adios. Siamo caduti. Adios di Piero Ciampi, perché era un po', come dire... Dobbiamo scegliere. Volete Julio Iglesias o Piero Ciampi? Oppure... O il super... Poi il super telegattore lo otterrei per un'apertura. Bene, a allora sorpresa. Questa. No, allora scelgo io. Sceglie sì, la Nemia sì, e sì. Con questo pezzo livornese, dai. Sì, ecco. dai, questo ci sta. Forza. Vi salutiamo con il nostro personalissimo. Ci vediamo fra un mese. Adios. Ciao. Ci mancherete. Buono studio. E ci... Esatto, ci sentiamo il 2 marzo alle 19:30 sempre sulle frequenze di Radio Wombat. Wombat Radio. Wombat. Ciao, studiate, fate i bravi. Ciao. Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo.